Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il commesso di Bernard Malamud, traduzione di Giancarlo Buzzi. Frank viveva nel retrobottega. Aveva appeso i suoi vestiti in un armadietto che si era comperato e dormiva sul divano col cappotto addosso. Aveva approfittato della settimana di lutto di Ida e Helen, quando erano confinate di sopra, per tenere aperto. Stando aperto, il negozio rimaneva in piedi, ma per il resto la situazione era precaria. Se non fosse stato per i 35 dollari settimanali che Frank metteva in cassa, avrebbe dovuto chiudere. Vedendo che pagava le piccole fatture, i grossisti gli avevano conservato il credito. La gente si fermava in negozio per esprimere rincrescimento per la morte di Morris. Un tale disse che Morris era la sola persona che avesse mai avuto fiducia in lui, e pagò a Frank un conto arretrato di 11 dollari. Frank, a chi glielo chiedeva, diceva che mandava avanti il negozio per la vedova, e la gente approvava. Dava a Ida 12 dollari la settimana per l'affitto e promise di darle di più quando le cose fossero andate meglio. Disse che magari in quel caso avrebbe potuto rilevare il negozio, ma avrebbe dovuto pagarlo a rate, perché non aveva denaro per pagare in contanti. Ida non gli rispose nulla. Frank sperava che col tempo Helen l'avrebbe perdonato. Sulle scale un mattino disse a Helen: «Le cose sono cambiate. Non sono più quello d'una volta». «Tu non fai che ricordarmi», disse Helen, «qualcosa che voglio dimenticare». «Quei libri che una volta mi hai dato da leggere», disse Frank, «sei sicura di averli capiti, tu?» Helen si svegliò da un brutto sogno. Nel sogno si era alzata con l'intenzione di uscire di casa nel cuor della notte per sfuggire a Frank che l'aspettava sulle scale. Ma lui era là, sotto la luce gialla della lampada, e carezzava lascivamente il suo berretto. Quando Helen si avvicinò, le labbra di Frank formarono le parole: «Ti amo». «Griderò se lo dici», gridò e si svegliò. Alle 7:15 si costrinse ad alzarsi, bloccò la suoneria della sveglia prima che funzionasse e si tolse la camicia da notte. La vista del suo corpo l'umiliò. Che disastro, pensò. Avrebbe voluto essere di nuovo vergine e madre allo stesso tempo. Ida era ancora sveglia nel letto mezzo vuoto che per tutta una vita aveva accolto due persone. Helen si spazzolò i capelli, si lavò e mise il caffè sul fuoco. Ritta accanto alla finestra della cucina, guardò i cortili in fiore e sentì una fitta al cuore, pensando a suo padre, che giaceva nella sua tomba immobile. Che cosa gli aveva dato? Cosa aveva fatto per rendere un po' più lieta la sua povera vita? Pianse per Morris, pensando ai suoi compromessi e alle sue rese. Pensò che doveva fare qualcosa per sé, concludere qualcosa di degno o rassegnarsi alla sua sorte. Solo migliorando se stessa avrebbe potuto dare un significato all'esistenza di Morris, perché in un certo senso lei gli apparteneva. Doveva prendere quel diploma a qualsiasi costo. Le ci sarebbero voluti degli anni, ma era l'unica cosa che le restava da fare. Frank smise di farle la posta nell'atrio. Un mattino gli aveva gridato: «Perché vuoi importi a me per forza?» E lui, colpito dal fatto che il suo pentimento fosse per lei come un martellamento, aveva smesso. Ma quando poteva, la osservava da un'apertura della tenda di carta all'interno della vetrina. Guardava, come se vedesse tutto ciò per la prima volta, la sua figura snella, i seni piccoli e sodi, la curva leggera delle labbra e l'attrattiva sensuale celata nelle sue gambe un po' storte. Sembrava sempre sola. Frank cercava di pensare cosa poteva fare per lei, ma quello che gli veniva in mente era qualcosa di cui Ellen non sapeva che farsene, qualcosa che sarebbe finito nella spazzatura. L'idea di far qualcosa per lei gli parve futile come tutti gli altri suoi pensieri, finché un giorno, osservandola rincasare impassibile, attraverso la tenda di carta un po' scostata, gli venne un'idea così straordinaria che i capelli gli si rizzarono in testa. Gli venne in mente che la miglior cosa che potesse fare era aiutarla ad andare all'università, come aveva sempre desiderato. Non c'era nulla che lei desiderasse di più, ma quand'anche gli avesse permesso di aiutarla, e Frank più ci pensava, più ne dubitava, dove avrebbe trovato i soldi, a meno di rubare? Più rimuginava questo progetto, più se ne esaltava, finché non riuscì più a sopportare il pensiero che il suo progetto non potesse attuarsi. Teneva nel portafoglio il biglietto che Ellen gli aveva scritto una volta per dirgli che se Nick e Tessie fossero andati al cinema sarebbe salita in camera sua, e lo rileggeva sovente. Un giorno gli venne un'altra idea. Incollò un avviso in vetrina: panini caldi e minestre da portar via. Pensava di poter sfruttare a vantaggio del negozio la sua pratica nella preparazione dei piatti semplici. Fece stampare un po' di volantini per reclamizzare i nuovi articoli e diede $0.50 a un ragazzino perché li distribuisse nei posti dove c'erano degli operai. Per un paio di isolati andò dietro al ragazzo per assicurarsi che non buttasse i volantini nella fogna. Prima della fine della settimana, qualche nuovo cliente venne all'ora di pranzo e di cena. Dicevano che era la prima volta che nel quartiere si potevano avere dei cibi caldi da portare a casa. Frank provò anche a fare i ravioli e le lasagne, valendosi di ricette prese da un libro della biblioteca. Provò anche a cuocere piccole pizze nel forno a gas e le vendette a $0.25 l'una. La pasta e le pizze ebbero più successo dei panini caldi. In luglio si mise a far caldo. La gente cucinava di meno e c'era un consumo maggiore di cibi già pronti, di scatolame e di bevande in bottiglia. Vendette una quantità di birra. La sua pasta e le sue pizze andavano bene. Inoltre, invece di usare minestre in scatola, Frank preparava lui stesso un minestrone che piaceva a tutti. Occorreva del tempo per la cottura, ma il guadagno era maggiore. I nuovi cibi gli facevano vendere automaticamente altre cose. Adesso dava a Ida $90 al mese per l'affitto e l'uso del negozio. «Perché mi dà tanto?» gli chiese Ida quando Frank portò l'affitto a $90. Ellen potrebbe tenersi una parte dello stipendio, suggerì lui. Ellen non si interessa più a lei, disse Ida con durezza. Frank non le rispose. Ma la sera stessa dopo cena, si era fatto delle uova al prosciutto e stava fumando un sigaro, Frank pulì il tavolo e si mise a calcolare quanto sarebbe costato mantenere Ellen all'università se lei avesse lasciato l'impiego. Quando lesse nei bollettini delle università che si era procurato l'ammontare delle tasse, vide che non ce l'avrebbe fatta. Se ne rattristò. Poi pensò che forse ci sarebbe riuscito se Helen fosse andata in una università pubblica. Avrebbe potuto darle abbastanza per le sue spese giornaliere e anche raggranellare una somma pari a quella che lei passava ora a sua madre. Sapeva che per lui cacciarsi in quell'impresa voleva dire avere una pietra sospesa sul capo, ma doveva farlo. Era la sua sola speranza. Non riusciva a trovare nessun'altra via. Ciò che chiedeva per sé era solo il privilegio di darle qualcosa che lei non potesse rendergli. La grossa difficoltà, eccitante ma paurosa, era parlarle, dirle quel che sperava di fare. Aveva sempre in mente di discorrere con lei, ma la cosa gli sembrava molto difficile. Parlarle, dopo quanto era successo, pareva impossibile, anche per il rischio, la vergogna e la sofferenza che la cosa comportava. Qual era la parola magica per cominciare? Temeva che non sarebbe mai riuscito a convincerla. Era distante, offesa, indifferente o, ammesso che provasse un sentimento nei suoi confronti, si trattava di un senso di disgusto. Malediva se stesso per essersi messo in testa quest'idea intricata, della quale adesso non sapeva risolversi a parlare. Una sera d'agosto che l'aveva vista rincasare in compagnia di Nat Pearl, stanco di quella penosa inattività, Frank decise di fare qualcosa. Stava al banco a mettere bottiglie di birra nella sporta di una cliente quando vide Helen uscire con dei libri sotto braccio. Indossava un nuovo abito estivo rosso con guarnizioni nere. Al vederla, il suo desiderio si ridestò. Tutta l'estate lei non aveva fatto che girovagare di sera nel quartiere cercando di dimenticare, passeggiando, la propria solitudine. Aveva avuto la tentazione di chiudere il negozio e di seguirla, ma finché non gli era venuto questo nuovo progetto in mente, non riusciva a immaginare cosa avrebbe potuto dirle senza farla scappar via. Quella sera sbrigò la cliente in fretta, si lavò, si pettinò i capelli e indossò alla svelta una camicia sportiva fresca di bucato. Chiuse il negozio e si affrettò nella direzione che Helen aveva preso. Era stata una giornata calda, ma ora a momenti faceva freddo. Il cielo, pur apparendo scuro sotto le luci, era di un verde dorato. Percorse un isolato e, sovvenendosi di qualcosa, rifece la strada fino al negozio. Sedette nel retro col cuore che gli martellava. Dopo 10 minuti accese una lampada in vetrina. Il globo luminoso attirò una falena malconcia. Sapendo quanto Helen si attardasse tra i libri, si sbarbò. Poi chiuse un'altra volta la porta e si diresse alla biblioteca. Pensò di aspettare chi uscisse sull'altro lato della strada. Avrebbe attraversato e avrebbe attaccato discorso con lei sulla via del ritorno. Prima ancora che Helen si fosse resa conto della sua presenza, avrebbe pronunziato la sua tirata e si sarebbe messo il cuore in pace. Helen avrebbe potuto rispondere sì o no, e se era no, avrebbe chiuso baracca all'indomani e se ne sarebbe andato. Si stava avvicinando alla biblioteca quando, alzando gli occhi, la scorse. Distava da lui circa mezzo isolato e veniva nella sua direzione. Rimase là senza sapere dove andare, temendo di essere visto da lei, carina com'era, fermo, come un cane zoppo, mentre lei gli passava accanto. Pensò di tornare indietro per la stessa strada, ma Helen l'aveva visto. Si era voltata e si era diretta in fretta nella direzione opposta. Allora, riesumando una vecchia abitudine, le si mise dietro e prima che Helen potesse proibirglielo, le aveva toccato il braccio. Rabbrividirono. Senza dargli il tempo di dar voce al suo disprezzo, Frank tirò fuori con parole sconnesse il discorso che per tanto tempo aveva tenuto dentro di sé, ma adesso non riusciva a sopportare la propria voce mentre le parlava. Quando Helen si rese conto di quel che Frank le offriva, il cuore prese a batterle in fretta. Sapeva che Frank l'avrebbe seguita e le avrebbe parlato, ma mai e poi mai avrebbe potuto supporre che le avrebbe detto questo. Considerando in che condizioni viveva, era allarmata dalla sua incessante capacità di sorprenderla, di fare mosse sempre imprevedibili. La sua resistenza la rendeva perplessa e la spaventava, perché dal giorno della morte di Ward Minogue aveva sentito affievolirsi dentro di sé la sensazione dell'oltraggio subito. Pur destando il ricordo della sua esperienza nel parco, le era tornato alla memoria di recente quanto avesse desiderato quella sera darsi a Frank, e magari l'avrebbe anche fatto se Ward non le avesse messo le mani addosso. Aveva desiderato Frank e, non fosse stato per Ward Minogue, non ci sarebbe stata violenza. Se Frank avesse sfogato il suo desiderio a letto, lei avrebbe risposto appassionatamente. L'aveva odiato per stornare l'odio da se stessa. Ma la sua risposta all'offerta di Frank fu un rifiuto immediato. Lo espresse quasi selvaggiamente, per evitare qualsiasi possibilità di contrarre un debito con lui, di farsi intrappolare un'altra volta, di provare nausea. «Non ci penso nemmeno». Frank era meravigliato di essersi spinto tanto oltre, di stare camminando al suo fianco, solo che era la notte di un'altra stagione e il suo viso d'estate era più soave del suo viso d'inverno, il suo corpo più femminile. Ciò gli fece sentire di più la sua perdita. Più la desiderava, più grave era la sua perdita. «Fallo per tuo padre», disse, «se non vuoi farlo per te». «Cosa c'entra mio padre con questa faccenda?» «È il suo negozio. Lascia che questo negozio ti mantenga all'università come Morris avrebbe voluto. Senza di te non è possibile e io non voglio il tuo aiuto. Morris mi ha fatto un grande favore. Non posso restituirlo a lui, ma a te sì, anche perché quella sera ho perso il controllo di me. Per l'amor di Dio, non parlarmene!» Lui non ne parlò e tacque. Camminarono in silenzio. Helen s'accorse inorridita che stavano avvicinandosi al parco. Bruscamente cambiò direzione. Frank la raggiunse. «Potresti laurearti in 3 anni. Non dovresti preoccuparti delle spese. Potresti studiare quanto ti piace. Che cosa ti riprometti da tutto questo? La virtù? Te l'ho già detto perché. Ho un debito con Morris. Per che cosa? Perché ti ha preso nel suo puzzolente negozio e ha fatto di te un prigioniero? Cos'altro poteva dire? Per completare la sua sofferenza, gli affiorò alla memoria ciò che aveva fatto a suo padre. Qualche volta aveva pensato che gliene avrebbe parlato, ma non ora. Eppure si sentiva sopraffatto dalla voglia di dirglielo. Cercò disperatamente di sfuggire a quell'impulso. La gola gli faceva male, lo stomaco gli si contraeva. Strinse i denti, ma le parole gli uscirono uno sgocciolio, un rivolo schifoso. «Io», articolò penosamente, «sono stato io a rapinarlo quella volta. Minogue e io. Ward aveva deciso di rapinare lui dopo che Carp se l'era svignata, ma fu anche colpa mia, perché entrai in negozio con lui. Lei gridò e avrebbe continuato a gridare se non fosse stato per gli estranei che li osservavano. Helen, giuro che tu, delinquente, come hai potuto colpire un uomo così mite? Cosa t'aveva fatto di male? Non fu io a colpirlo, fu Ward. Io gli diedi da bere dell'acqua e lui capì che non volevo fargli del male. Poi venni a lavorare per lui per ripagare il male che gli avevo fatto. In nome di Cristo, Helen, cerca di capirmi. Col viso stravolto, Helen si allontanò da lui. L'ho confessato anche a lui, le gridò dietro Frank. Thank you.